Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, stasera vi parlo di una nuova collana dell'editore Marcos y Marcos. Ha una collana dal titolo intrigante, Il mondo è pieno di gente strana, frutto probabilmente della curatela del noto scrittore Paolo Nori, che segue appunto questa collana. E sono usciti i primi due volumi di questa nuova serie. Il primo che vi presento è quello di Fausto Malcovati, che è un grande esperto di cultura russa e particolarmente del teatro russo, che scrive Il medico, la moglie, l'amante. Come Chekhov cornificava la moglie medicina con l'amante letteratura. 218 pagine, 15 euro. Protagonista del libro dunque è Anton Chekhov, vissuto tra il 1860 e il 1904, uno dei giganti della letteratura russa. Malcovati segue fedelmente la vita di Chekhov, che era nato in una famiglia molto modesta, che tuttavia gli consentì di studiare e di diventare medico, una professione che lo scrittore, come spiega appunto il sottotitolo del libro, continuò a praticare sempre nella sua vita, assieme a quella che poi diventò un vero e proprio mestiere, e cioè quello della scrittura. Chekhov si caratterizzò per due generi e ne nobilitò in particolare uno: il teatro, ovviamente, ma anche le novelle, spesso, soprattutto all'inizio, dei bozzetti di vita vissuta che non mancavano magari di scandalizzare all'inizio i critici ben pensanti, ma che con lui diventarono autentica forma d'arte. E Malcovati segue la vita di Chekhov attraverso le tappe biografiche, ovviamente, ma direi soprattutto attraverso le opere più significative che ci vengono qui richiamate, e ne esce un quadro palpitante della vita di questo protagonista del mondo culturale, ma soprattutto interprete del clima di grande fermento che di lì a poco sarebbe poi esploso nella rivoluzione. Ma sentiamo l'autore. Buonasera Fausto Malcovati. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Fausto Malcovati, come dicevo prima, questo suo libro inaugura una collana intitolata Il mondo è pieno di gente strana. Che cosa aveva di strano Chekhov per essere introdotto in questa collana? Chekhov in realtà, potremmo dire, non ha niente di strano, o tutto di strano, nel senso che è uno scrittore anomalo rispetto al mondo in cui vive, in cui comincia la sua attività letteraria. Chekhov non è uno scrittore, è un medico, studia medicina, si laurea in medicina, vuol fare il medico e, siccome è povero, e fra l'altro vi sottolineo nelle prime pagine che è figlio di un servo della gleba, quindi viene da assoluta povertà, ambiente culturalmente poverissimo, eccetera. E per fare l'università scrive delle sciocchezzuole, così, da quattro soldi, che vengono pagate dalle riviste umoristiche del tempo. Queste riviste avevano proprio delle piccole barzellette, degli sketch, delle vignette con sotto delle didascalie, e Chekhov si accontenta di quello, viene pagato per quello, e diciamo che comincia proprio senza assolutamente pensare di diventare scrittore. Vuol guadagnare due soldi e il mezzo migliore è scrivere queste sciocchezze. E solo a un certo punto, quando uno scrittore allora famoso, poi caduto nel totale dimenticatoio, che si chiama Grigorovich, un giorno gli scrive una lettera dicendo: senta, signor Cecontè, perché scriveva solo con degli pseudonimi, non usava il proprio cognome, gli dice: senta, lei ha talento, molto, perché scrive quelle stupidaggini? Scrive delle cose più serie, faccia lo scrittore vero. E per lui è una scoperta, dopo 4-5 anni di attività del tutto marginale e del tutto casuale nella letteratura. Quindi voglio dire, perché è strano Chekhov? Proprio per questo, perché essendo poi diventato un grandissimo scrittore, comincia senza proprio nessuna intenzione di esserlo. Del resto questo suo rapporto con la professione medica lo mantenne tutta la vita, infatti il sottotitolo del suo libro è eloquente, considerava la moglie la medicina, certo. Esatto. Ma devo dire che in questo senso qui io vorrei appunto sottolineare quello che lei mi sta dicendo, cioè Chekhov ebbe per tutta la vita una grandissima coscienza professionale del proprio mestiere di medico e esercitò, aiutò nei villaggi dove viveva i contadini poveri e fece questo famoso viaggio a Sakhalin, attraversando tutta la Russia fino al Pacifico, cioè tutta la Siberia, eccetera, per testimoniare l'orrore di un campo di lavoro zarista. E andò come medico con delle schede, testimoniò le violenze, le malattie, le torture a cui venivano sottoposti quando era già scrittore famoso, voglio dire, non agli esordi, quando era scrittore famoso. Dunque, medico fino in fondo e medico con una coscienza professionale profonda e autentica, che secondo me è una cosa di nuovo che in genere la gente non sa, perché dice vabbè, l'autore, il giardino di ciliegi, gli scrittori, i racconti eccetera, ma è un uomo che ha pagato per questa sua passione per la medicina. Questo libro che lei ha citato, L'isola di Sakhalin, conferma quanto la forza del Chekhov novelliere stesse soprattutto nel fatto che egli era un grandissimo osservatore. Lei nel suo libro ricorda un giudizio di Majakovskij secondo il quale in Chekhov non ci sono idee, soggetti, ogni fatto anonimo può essere avviluppato nella rete meravigliosa della parola. La parola genera l'idea, non già l'idea la parola. Quindi si attaccava degli elementi apparentemente banali anche. Ma sì, questo è la grandiosità, il segreto è anche la grande novità della prosa cecoviana nel suo tempo, e cioè Chekhov raccontava dei frammenti di vita dei suoi personaggi, non aveva mai delle costruzioni letterariamente complesse, raccontava delle vite con attenzione, con cura, con partecipazione, e quello che stupì per esempio anche Virginia Woolf, cioè il fatto che spesso i racconti di Chekhov finiscono senza fine, cioè non basta, si chiude perché è chiuso quel frammento di vita che si sta raccontando. La grandiosità di Chekhov è proprio questa attenzione alla vita reale che hanno i suoi personaggi, alle emozioni semplici, dirette, e non c'è costruzione. Beh, ci sono degli autori contemporanei a lui, cito per esempio Gorky, che è uno degli esempi più tipici, no? Che allora divenne molto più famoso di Chekhov, eppure oggi è quasi totalmente dimenticato, secondo me proprio perché in Gorky c'è un tentativo di costruzione del racconto, inizio, fine, trama, cioè, che in Chekhov non c'è, e Chekhov è di una modernità assoluta. Io cito sempre, non so, La storia noiosa, questa vita di un professore universitario che sente morire, che ha una malattia che lo porta alla morte, e cos'è il racconto? Il racconto di questi ultimi giorni, che si conclude con un incontro con una sua pupilla, in cui la pupilla gli dice dimmi qualche cosa, e lui dice ma no, senti, andiamo a far colazione che è meglio. Un altro libro molto importante, che lei definisce addirittura un libro iniziatico, La steppa, e si conclude ponendo proprio questo tema, lei ricorda, dice, si conclude con la domanda come sarà questa vita. Sì. La steppa è un altro di questi esempi ancora più bello, cioè è il viaggio di un ragazzino dal villaggio nella steppa da cui parte per arrivare al capoluogo di provincia dove andrà a scuola, ed è un giorno, la sera, la notte, il luogo dove dorme, il temporale, il dialogo tra i carrettieri che lo portano in carro eccetera, si ammala e si conclude con l'arrivo, basta, chiuso. Però le dico, non si smette un attimo di appassionarsi a quello che viene raccontato, ed è in questo senso magnifico e nello stesso tempo modernissimo. Lei cita due lettere di Chekhov nelle quali Chekhov si presenta così. Nella prima: ho paura di quelli che cercano di scoprire una tendenza tra le righe, di quelli che vogliono vedere in me un liberale o un conservatore. Sono un liberale, non sono un conservatore, non sono un progressista, non sono un monaco, non sono un indifferente. Insomma, in che cosa credeva Chekhov? Ecco, questa è una lettera secondo me molto, molto importante e fa molto pensare, cioè Chekhov rifiutava le etichette, e cioè non voleva essere irregimentato in un gruppo ideologico, ma secondo me aveva una fortissima convinzione che l'uomo deve essere corretto nelle proprie scelte, nelle proprie opinioni, nelle proprie fedi, e in questo senso Chekhov rivendica questa correttezza, tanto è vero che la rottura con il suo editore principale, che era Sue Warren, che per 13 anni ha pubblicato tutte le sue cose migliori, le sue prose migliori, avvenne perché? Perché pur essendo stato per 13 anni accanto a un editore fortemente conservatore, a un certo punto rifiuta la posizione di Sue Warren nei confronti dell'affare Dreyfus, cioè l'antisemitismo è qualcosa che lo disgusta e quindi dice no a un certo punto e chiude un rapporto, proprio perché la sua idea è libertà e assoluta fedeltà a certi miei principi, che non sono inquadrabili in una fede politica particolare. Non era accanto ai rivoluzionari, ma sentiva e capiva, e lo dimostrano soprattutto gli ultimi suoi drammi, capiva che qualche cosa stava succedendo nella Russia e che la Russia era totalmente disattenta ai movimenti sociali. Lo sa, lo dice. Con questo non vuol dire che va alle riunioni dei rivoluzionari, e quindi è secondo me un modo chiaro per esprimere le proprie convinzioni, cioè alludere alla presenza di elementi politicamente probabilmente sconvolgenti. Basta leggere appunto i discorsi che fa nel giardino dei ciliegi lo studente, no? Che dice signori, qui voi non capite niente, voi siete sull'orlo di un baratro. Questo era da dire, e non a caso, le ripeto, il teatro di Chekhov è ancora un teatro di una modernità incredibile, proprio perché non è legato, in questo di nuovo mi rivolgo, ricordo Gorky, non è legato a un'ideologia, come Gorky è invece. Il teatro di Gorky nessuno lo rappresenta più, eppure è contemporaneo a Chekhov e scrive negli stessi anni e partecipa molto più violentemente di Chekhov ai momenti politici, eccetera. Quindi in questo senso è il teatro di Chekhov è mille volte più forte anche, diciamo, politicamente, che non un Gorky, che lo è poi diciamo nella vita. Un Gorky che lui difese comunque. Grazie. Sì, sì. Grazie a Fausto Malcovati, autore de Il medico, la moglie, l'amante. Buona serata. Grazie. L'altro volume di questa serie è quello di Ugo Cornia, che è un insegnante. Sono socievole fino all'eccesso. Vita di Montaigne, Marco Simarco, naturalmente, 174 pagine, 15 euro. Un altro gigante che ci viene qui presentato, appunto Montaigne, dominato dalla forza della propria immaginazione, che per l'autore non sono soltanto chimere, unicorni e fantasmi. Montaigne sente di essere fatto come una spugna che si impregna immediatamente degli umori e delle affezioni che gli altri patiscono. E la curiosità di Montaigne nel libro si esercita in particolare nei confronti di un indigeno appena portato in Francia dall'America, che lo scrittore riuscì a incontrare, suscitando le sue riflessioni sul nuovo mondo, che per la verità sembrano essere piuttosto delle riflessioni su un mondo ideale. Ci interrompiamo per un attimo, ci sentiamo fra pochi istanti. Radio24.it è sempre con te, anche in viaggio. Consulta la mappa del traffico aggiornata in tempo reale. Potrai conoscere la viabilità del luogo in cui ti trovi e avere tutte le info su code, cantieri e altre criticità. Clicca su Mappa e scopri il nuovo servizio su Radio24.it. Radio 24, la passione si sente anche in viaggio. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Poche settimane fa è caduto il bicentenario di un evento molto importante che ha cambiato la storia e soprattutto i confini dell'Europa, il Congresso di Vienna. Allora ricordiamo quell'evento con un libro che affronta quella pagina da un punto di vista particolare, dal punto di vista cioè della musica. Questa è la Vittoria di Wellington di Beethoven. Questo brano fu una specie di colonna sonora di quell'evento che si protrasse dal 1 novembre 1814 al 9 giugno 1815. E quelle giornate, soprattutto il clima culturale dell'epoca, ci sono presentate nelle lettere di un giovane Marco che fa parte delle delegazioni del Papa, in particolare e al seguito del segretario di Stato, il cardinale Consalvi. Queste lettere in realtà sono apocrife, immaginario, e il loro autore protagonista di quello che diventa dunque un vero e proprio romanzo in forma epistolare di Piero Rattalino, un grande musicologo. Il libro si intitola Celeste Infernale, Beethoven e la musica del congresso di Vienna, pubblicato dalla Terza, 148 pagine, 16 euro. Marco è tratto soprattutto dalla musica in quella circostanza, che naturalmente a Vienna è di casa alle sue massime espressioni. Tra l'altro il 29 novembre del 1814 si tenne appunto un memorabile concerto diretto da Beethoven, che diresse per l'appunto questo brano, oltre alla settima sinfonia e alla cantata Il momento glorioso. Beethoven fa nel libro un'impressione formidabile sul giovane, che avrà modo di conoscere, apprezzare e incontrare un altro genio dell'epoca, cioè Schubert. Marco è umile, si affida ai giudizi di un esperto italiano che non ama particolarmente Beethoven, ma ne recepisce la straordinaria novità fin dalla prima opera che ascolta, come spiega in queste righe. Sono finalmente riuscito ad ascoltare una musica di grande momento, l'opera Fidelio del signor Beethoven. Io, che non conoscevo affatto questo nome ostrogoto, ho dovuto vergognarmi della mia ignoranza, perché mi è stato spiegato da persona autorevole che il signor Beethoven è oggi il miglior musico che sia in Vienna. La venerazione per il signor Haydn, morto in tarda età circa 5 anni in addietro, è ancora grande, ma con il signor Beethoven si sono creati due partiti, di quelli che giurano per lui e di quelli che ne sono tutt'affatto disgustati. Però solo di lui si charla, solo di lui si discute, solo su di lui si filosofeggia, in bene e in male. La rappresentazione ebbe luogo nel teatro di Porta Carinzia, che non è gran cosa, con il palco della corte senza apparato né magnificenza. La storia del Fidelio è bella e commovente, e moralmente sana. La musica non so, non saprei dire, tanto mi mise in confusione. A teatro feci la conoscenza di un connazionale, il signor Giuseppe Acerbi, mantovano, che è molto più di me esperto in musica moderna ultramontana. Ecco il suo franco e lapidario giudizio sul Fidelio. Musica piena di bellezze e di genio, ma troppo ricca d'armonia e di strumentazione. Credo che sia così, ma non mi pronuncio. Ma naturalmente nel libro di Rattalino non c'è soltanto la musica. Le lettere destinate al destinatario romano, che è uno zio abate, sono completate da una sorta di diario del giovane, che illustra i progressi diplomatici del congresso e soprattutto testimonia la sua preoccupazione sul futuro dello Stato pontificio, che dovrà pagare anch'esso dazio ai nuovi equilibri voluti dalle potenze vincitrici. Insomma, un romanzo musical storico. Il congresso di Vienna chiude naturalmente il periodo napoleonico, che a sua volta aveva fatto crollare un mondo ormai decrepito, ma questo vecchio mondo, che spesso aveva grandi manifestazioni di vitalità, è descritto per quanto riguarda l'Italia nel libro di un grande storico milanese, Carlo Capra, e si intitola il libro Gli italiani prima dell'Italia, un lungo settecento dalla fine della Controriforma a Napoleone, pubblicato da Carocci, 460 pagine, 32 euro. Questo libro ricco di suggestioni, perché racconta un lungo tratto, come avete sentito, della storia italiana, considerando non soltanto i fatti politici, ma tanti altri aspetti, dall'economia alla cultura alla demografia, che ci presentano appunto un'Italia ricca spesso di fermenti e di cambiamenti che tendono a prefigurare quella che sarà poi la grande svolta del Risorgimento. Anche nei regimi più conservatori, osserva l'autore, per esempio il Regno di Sardegna o lo Stato Pontificio o la stessa Repubblica di Venezia, furono notevoli alcuni spunti riformisti presenti in quelle società, e non mancavano all'epoca dei fenomeni sociali sui quali pure Capra si diffonde, perché sono degli aspetti particolarmente curiosi, interessanti, magari anche molto criticati o addirittura ridicolizzati, come la figura del Cicisbeo, di cui Capra ci parla così. Non già perché alcune donne avevano amanti, ma perché una donna non poté più mostrarsi in pubblico senza un amante, gli italiani cessarono di essere uomini. Questo severo giudizio, contenuto in uno dei libri più letti nell'Italia del Risorgimento, La storia delle repubbliche italiane, di Jean-Charles Léonard Sismond di Sismondi, ha a lungo ispirato le condanne pronunciate da storici e moralisti nei confronti di un costume tipico del nostro Settecento, o meglio, delle classi superiori dell'Italia settecentesca, il cicisbeismo. ovvero l'uso delle gentil donne sposate di ricevere in casa propria e di farsi accompagnare dovunque da un cavalier servente. L'uso fu spesso evocato o satireggiato dagli scrittori contemporanei. Carlo Goldoni lo mette in scena in molte delle sue commedie e Giuseppe Parini, nei versi del Giorno, si finge precettor d'amabile rito di un giovin signore la cui occupazione principale è quella di assistere la sua dama in tutte le occorrenze della giornata. Benché un'ampia libertà sessuale sia dovunque nell'Europa settecentesca una caratteristica del modo di vita delle classi superiori e non manchino altrove figure sociali assimilabili per certi versi ai nostri cicisbei, come il petit maître francese, una simile istituzionalizzazione di un rapporto extraconiugale si trova solo in Italia, come non mancano di osservare, in tono volta a volta divertito o scandalizzato, i sempre più numerosi viaggiatori stranieri. Un'altra interessante opera storica è quella di uno studioso israele marocchino, Michel Abitbol, che è un orientalista, e si intitola Storia degli ebrei dalle origini ai nostri giorni, pubblicato da Einaudi, 810 pagine, 40 euro, tradotto da Valeria Zini. Il libro, spiega l'autore, vuole offrire al lettore un racconto chiaro della storia degli ebrei dalle origini ai nostri giorni, e l'obiettivo è quello di sfatare i miti, le leggende nere, i pregiudizi che purtroppo ancora circolano contro gli ebrei e che hanno trovato nuova diffusione grazie a internet. E quindi l'autore vuole affermare contro ogni negazione che un popolo ebreo esiste e che questo popolo appunto ha avuto una sua continuità nella storia, nella quale ha svolto un ruolo molto importante. Quindi si parte dunque dai miti biblici e da Abramo per esaminare poi tutte le tappe della storia del popolo ebraico, delle sue migrazioni, degli insediamenti cui queste migrazioni diedero vita. E naturalmente si parla delle persecuzioni, dei pogrom che il popolo ebraico dovette subire fino alle recenti vicissitudini dello Stato di Israele. Le varie tappe di questa storia nel libro di Abitbol diventano le tappe della costruzione di una storia gigantesca, come scrive l'autore, apparentemente un miracolo che fa sopravvivere l'ebraismo pur in presenza di persecuzione da parte di avversari molto più forti e potenti del popolo ebraico. Il libro è scritto con brio, spesso anche con humor, e ci fa conoscere una storia che fa parte sicuramente della storia di tutti noi, ma sentiamo dal libro una testimonianza sulla presenza ebraica a Venezia e sull'origine dei ghetti. Venezia, fino alla guerra osmano-veneziana del 1570-74, ha pensato più di una volta di espellere gli ebrei dal suo territorio. A farle cambiare definitivamente parere è il progetto sottoposto al Senato veneziano dal nuovo cristiano Daniel Rodriga, che consiglia l'apertura di un porto franco a Spalato, in Dalmazia, per salvare il commercio di Venezia. Come tutte le altre componenti della comunità ebraica, italiani, levantini, spagnoli e aschenaziti, tedeschi, che abitano dal 1516 il ghetto nuovo, poi il ghetto vecchio a partire dal 1541, sono tenuti a vivere raggruppati in un solo quartiere, il ghetto nuovissimo, e a indossare un cappello giallo, più tardi rosso a partire dalla fine del XVI secolo, conformemente alle prescrizioni segregazioniste della Chiesa. Ritornando senza timore al giudaismo, i marrani veneziani creano ben presto la propria congregazione, chiamata Talmud Torah, che nello spazio di alcuni anni acquista un posto preponderante nella vita economica della città, concentrando nelle sue mani la maggior parte del commercio italiano con Salonicco, Istanbul e il Mar Nero. Venezia si distingue anche per il dinamismo delle sue stamperie ebraiche. Provvisti di ricchezze e di forme di aiuto reciproco di ogni genere, i marrani di Venezia hanno la propria sinagoga, la bellissima scuola spagnola o ponentina, costruita nel 1584 e ingrandita nel 1635. E a questo punto... Confettino. Un libro di ambientazione storica è Cristina e la città delle dame di Silvia Balestra, con le illustrazioni di Rita Petruccioli, pubblicato dalla Terza, 18 euro. La protagonista di questa storia, che è ambientata nel Medioevo, è un personaggio storico, Christine de Pizan, una francese nata a Venezia nel 1365 e morta nel 1430, che è considerata la prima scrittrice europea di professione. Christine faceva anche la copista, quindi aveva a che fare con molti libri, e dovette sempre vedersela con le critiche e le persecuzioni di chi riteneva che ella fosse un pochino troppo emancipata per i tempi. La Città delle Dame è la sua opera più importante, fu scritta, spiega questo libro, grazie alla spinta di quelle che altrove sarebbero tre fate, e qui sono la rappresentazione della ragione, della rettitudine, della giustizia, che daranno a Christine la forza per decidere di affermare la propria personalità, i propri talenti e a scrivere un libro, e cioè dedicarsi a una missione fino allora riservata esclusivamente ai maschi. Ultimi arrivi. Oggi vi segnalo le novità di due giornalisti molto noti. Il primo è Giampaolo Pansa, che ha scritto L'Italiaccia senza pace, misteri, amori ed eliti del dopoguerra, pubblicato da Rizzoli, 344 pagine, 20 euro. L'Italiaccia è quella del secondo dopoguerra, un periodo molto battuto e studiato da Pansa, che in quegli anni rintraccia una sorta di peccato originale della Repubblica. Qui in particolare, in questo libro, vengono descritti gli anni più drammatici, quelli tra il 45 e il 48, rivisitati attraverso tante storie comuni, tante storie tragiche, che spiegano anche il clima nel quale poi sarebbe maturata la vittoria elettorale di Alcide De Gasperi. L'altro giornalista è Federico Rampini, che ha pubblicato L'età del caos, ci riporta dunque al giorno d'oggi. Il sottotitolo è Viaggio nel grande disordine mondiale, pubblicato da Mondadori, 328 pagine, 18,50 euro. Qui affronta Rampini i grandi problemi che ci assillano, dalle crisi della democrazia tradizionale all'immigrazione, alle tecnologie, alle aree calde dell'economia e del mondo come Cina e India. E infine, agli appassionati di José Saramago, il premio Nobel per la letteratura portoghese, segnalo Lanzarote, la finestra di Saramago, che è un libro fotografico di João Francisco Villegna, è pubblicato da Quarup, 19,90 euro. Qua troviamo dei brani del grande scrittore accompagnati dalle immagini dell'isola delle Canarie, dove Saramago si ritirò negli ultimi anni della sua vita. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Valeria Bernardi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.